Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Benvenuti, 16:33, Luca Tremolato al microfono. Oggi diamo il via a una 3 puntate, venerdì, lunedì e martedì, dedicate all'inquinamento, all'energia e all'ambiente, a un trittico. Oggi mettiamo in campo Luca Salvioli e Mario Cianflone, che rispettivamente il responsabile del canale motori e caposervizio del servizio online del Sole 24 Ore, Luca Salvioli, esperto di energie ed energie rinnovabili, sempre del Sole 24 Ore online. Ma ora le news. Google si deve guardare le spalle. La Commissione europea ha autorizzato ieri a Bruxelles l'acquisizione da parte di Microsoft delle attività di ricerca online di Yahoo e della pubblicità connessa. L'operazione è nata per provare a dare fastidio al gigante di Mountain View in un settore come quello della ricerca, dove le attività di ricerca su internet e della pubblicità connessa svolte da Microsoft e Yahoo hanno una quota di mercato molto limitata, inferiore complessivamente al 10%, mentre Google detiene generalmente quote superiori al 90%. Stati Uniti e Cina. Recenti particolari gettano nuova luce sull'affare Google. Secondo il New York Times, dai computer di due università d'élite cinesi, una delle quali legata alle forze armate, sarebbero partite le decine di attacchi informatici contro Google e diverse grandi aziende americane. Intanto si moltiplicano le minacce e anche le notizie di aggressioni da parte di fantomatiche organizzazioni di hacker. Ieri la scoperta da parte di NetWitness della rete criminale Kneber, autrice del furto di 64.000 informazioni sensibili a 2.600 aziende. Oggi l'allarme lanciato peraltro già il 3 febbraio dalla National Intelligence Unit, che mette in guardia da un attacco telematico di Al-Qaeda contro i suoi nemici tradizionali. La minaccia non è giudicata imminente, ma neppure remota. Risulta che il 25-30% delle patologie che affliggono l'umanità sono attribuibili a cause ambientali. Lo afferma l'OMS. Secondo Roberto Bertollini dell'OMS, l'inquinamento è uno dei fattori di rischio più importanti per la salute. Soprattutto in età infantile potrebbero esserci le conseguenze più importanti, con gli effetti che potrebbero verificarsi anche dopo molti anni, con problemi respiratori e comportamentali, nel caso di elevata esposizione agli inquinanti. Allora, non è un mistero che, insomma, uno dei fattori su cui si punta subito il dito quando si parla di inquinamento sono le automobili, i veicoli. Mario Cianflone, oltre alle sue moltissime cariche, è anche il responsabile della pagina motori del Sole 24 Ore. Allora, le auto sono di fatto emettono CO2. Questo è un dato di fatto. Emettono CO2, è un dato di fatto, come un dato di fatto che il CO2 non è comunque un inquinante, è un gas serra. È bene che non ce ne sia troppo, ma se non ce ne fosse non potremmo vivere su questa terra. Va altresì detto che le vetture emettono anche veleni veri e propri. Va anche detto, scusami se ti interrompo, il fatto che negli ultimi 20 anni, insomma, la riduzione di inquinanti nelle auto è stata sostanziale, eppure il 25% delle emissioni globali di CO2 sono legate al trasporto pubblico. Noi abbiamo una scheda che, insomma, mette un po' ordine su questi numeri, sentiamoli. In Europa, negli ultimi 20 anni, le emissioni inquinanti degli autoveicoli sono state ridotte di oltre il 95% grazie a modifiche radicali delle tecnologie motoristiche. Dopo Copenaghen, le emissioni di CO2 saranno ridotte del 25% entro il 2015 rispetto al 2000 e del 40% entro il 2020. Questo significherà una riduzione significativa dei consumi grazie allo sviluppo di nuove tecnologie. Tra queste, naturalmente, l'auto elettrica. Eppure, le emissioni globali dal settore dei trasporti crescono e continuano a crescere. Secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, nel 2030 potrebbero addirittura raggiungere il 50% del totale, e questo soprattutto a causa dell'aumento di veicoli circolanti nelle economie emergenti. Allora, la prima domanda a Mario Cianflone è quali sono gli aspetti più inquinanti delle auto e su quali si può e si deve mettere mano, senza pensare all'auto elettrica che ha di là da venire, cioè poi tu non ne sei neanche un grande tifoso. Ma sicuramente ci sono dei grossi margini di miglioramento ulteriore del motore a combustione interna. Attualmente, come ho detto, mi sento prima, la riduzione negli ultimi 20 anni, cioè dall'avvento dell'armita catalitica, è stata il 95%. Questo vuol dire che anni fa respiravamo dei veleni insostenibili. Adesso le vetture diesel e benzina sono migliorate molto, c'è molto lavoro da fare, soprattutto per quanto riguarda le emissioni di particolato. Emissioni di particolato che, bene precisarlo, non vengono prodotte solo dallo scappamento, ma in misura rilevante, stimiamo in ordine al 40%, da freni, ruote e materiali di consumo. Tutto questo, genera polveri. Torniamo su questo passaggio, perché questa è una delle tantissime cose che io non sapevo. Cioè, io ho sempre immaginato sul particolato polveri sottili combustione del motore. In realtà no, non è così. No, non è così. Combustione del motore riguarda soprattutto i diesel di non recentissima concezione, soprattutto i diesel industriali. Benzina emette poco PM10. Per assurdo, cioè, il tema sono le ruote e le strade. Cioè, se uno tenesse in considerazione una pulizia vera, insomma, delle strade e delle ruote, questo potrebbe aiutare le città. Certo, migliorare anche i materiali di attrito, migliorare anche la tecnologia delle coperture, delle gomme, dei pneumatici, in modo da avere un attrito inferiore, migliore scorrevolezza, abbattere i consumi e evitare la dispersione in atmosfera di materiali. In questi casi il gioco è la somma di tanti miglioramenti. Tra l'altro, l'altro tema che volevo toccare rapidamente, prima di passare a un altro tema che è legato, noi getteremo un ponte, il salone termico, di questo specialista è Luca Salvioli. Però prima di passare a Luca Salvioli, l'altro tema è quello della diminuzione delle auto. Cioè, questo è un tema che chiaramente non dal punto di vista industriale non ci guardiamo bene, però la diminuzione di un tipo di auto, quelle più inquinanti, da che cosa passa questo dato e come possiamo leggere questa diminuzione se guardiamo ai paesi in via di sviluppo, dove non vengono utilizzate auto con tecnologie pulite nel motore, immagino. Anzi, non immagino, nel senso che quando vai un po' all'estero ti rendi anche conto, soprattutto in Asia, soprattutto anche in Africa, insomma, le macchine che passano da quelle parti lì non sono certo motori a quattro. Sicuramente in India e in Sud America. In Cina, essendo la motorizzazione più recente, il sistema di inquinamento allo scarico sono più evoluti. Va segnalato un dato di fatto: in Cina ci sono meno di 12 auto per abitante, in Italia sono circa 600. Loro si espandono a ritmi impressionanti, sono il primo paese per l'auto con 13,5 milioni di veicoli. Tra l'altro, immaginate dove c'è tra un po'. L'Italia è il primo paese come densità di auto, è uno tra i primi paesi, quantomeno io so. Mi risulta essere il primo o il secondo, ecco. Di gran lunga più degli Stati Uniti, quindi in un paese piccolo abbiamo molte auto. Forse troppe. Ci sta chiede Massimiliano da Lecce: il fumo delle sigarette quanto inquina? Noi non lo possiamo sapere. Questo qua inquina, sicuramente fa male ai polmoni. Bisogna chiarirsi su questo, nel senso che, come dicevi tu, sulle auto c'è l'attenzione da una parte alla CO2, che poi è, voglio dire, sono soprattutto lì l'attenzione sull'atmosfera e il riscaldamento globale. Gli inquinanti che fanno invece male alla salute dell'uomo sono altri, e la marmitta catalitica ha risolto soprattutto quelli. E la sigaretta quanto inquina, in che senso? Quanto fa male a una persona? Emissione di CO2, forse. Io mi sono sfasciato un polmone con 40 anni di sigarette, però a parte abbiamo una testimonianza pesantissima. Pesantissima, cioè, ma potrebbe essere stata anche la benzina del motorino quando ero piccolo, però sicuramente le sigarette hanno inciso. Allora, cambiamo argomento. Sta bene Mario Cianflone, sì, tranquillizziamo. Per ora è tutto ok, tutto ok. Cambiamo argomento, ma fino a un certo punto, perché entriamo nel campo delle energie rinnovabili, quindi le cosiddette, si chiamano ancora energie pulite. Si chiamano energie pulite, energie rinnovabili. Sì, più o meno vengono chiamate così. Noi oggi parliamo delle rinnovabili dimenticate, cioè quelle di cui non si parla mai, però in realtà sono sostanzialmente importanti. C'è un report dell'Enea interessante che poi vi cito. Succede spesso che quando si parla di energia solare si fa confusione tra fotovoltaico, che è la tecnologia che dall'energia del sole produce corrente elettrica, e invece il solare termico, che quindi utilizza i raggi del sole per invece riscaldare l'acqua, quindi per il riscaldamento. Si tratta sempre di un pannello, se ne vedono in giro, se ne vedono molti soprattutto in montagna, tecnologia diversa dal fotovoltaico, perché dal pannello appunto si ottiene il calore che serve per scaldare l'acqua. Ebbene, queste energie sono dimenticate. C'è un report dell'Enea molto interessante che analizza gli obiettivi della della Commissione Europea. C'è una direttiva di diversi mesi fa che impone ai Paesi membri di raggiungere entro il 2020 il 20% dei consumi finali di energia da fonte rinnovabile. Poi per ogni paese le percentuali sono diverse, l'Italia al 17%. Beh, buono, no? Dovrà raggiungere il 17%, siamo abbastanza lontani ancora. Però per raggiungerlo, secondo l'ENEA, occorrerebbe non solo incentivare, come già viene fatto abbondantemente, le fonti che producono elettricità, fotovoltaico su tutti, visto che ne parlavamo prima, quest'anno ha fatto il botto, come si dice, ma è importante anche incentivare o comunque promuovere le rinnovabili termiche. Tieni conto che se consideriamo i consumi energetici mondiali, il 50% sono termici, quindi in energia, non elettricità. Quindi è riscaldamento sostanzialmente. Riscaldamento, raffreddamento. Altro che il 25% delle auto, cioè... Sì, esatto, cioè diciamo che è una quota importante, quindi se si riesce a lavorare su quello si possono ottenere dei grossi risultati. L'industria del solare termico italiana nel 2009 ha fatturato 250 milioni di euro, che è più o meno un quarto del fotovoltaico. Ecco, noi abbiamo in collegamento Arrigo Burello, che è presidente Assolterm, associazione italiana solare termico, e amministratore delegato dell'azienda friulana Solar System. Buongiorno. Buongiorno, vicepresidente, volevo correggere. Vicepresidente, benissimo. Nova Lab 24. Allora, 16:46, per la precisione, Mario Cianflone mi ricordava che il 25% delle emissioni totali di CO2 nei trasporti non sono solo le auto, ma sono i cargo, i treni, cioè gli aeroplani, il traghettoni, per cui, insomma, transatlantici. Non diamo troppa colpa alle quattro ruote, ma Luca Salvioli. Torniamo a Burello, appunto, avevamo introdotto il tema. Io le chiederei direttamente di spiegarci perché il solare termico, appunto, noi l'abbiamo chiamato rinnovabile dimenticata, forse in maniera eccessiva, però di fatto viene valorizzato meno di altre delle rinnovabili, appunto, che producono corrente elettrica. Come mai, secondo lei, vicepresidente? Beh, lei ha usato un termine abbastanza forte e fondamentalmente corretto, anche se dimenticata non è proprio il termine giusto. Io vorrei usare il termine travolti. Noi siamo stati un po' travolti un po' negli ultimi 2-3 anni dallo Stato, no? Lo Stato ha preferito elargire somme importanti, contributi importanti nell'elettrico, e quindi è chiaro che la gente si è orientata verso questi tipi di energie. Comunque, certo, nel 2008 sono stati raggiunti termico... 280 megawatt di installato, quindi insomma, che solare termico è una realtà. E lei parla di una visione, il report dell'ENEA parla di una visione elettrocentrica, quasi come se il kilowatt non fosse sempre kilowatt anche quando si parla di energia termica. Ma è una questione culturale, c'è cioè una questione di business, di semplificazione? Qual è l'origine? Diciamo questo, io a dire la verità opero nel settore da 30 anni e quindi penso di essere un buon testimone di tutto quello che sta succedendo e è successo negli ultimi 30 anni sul solare termico. Devo dire la verità che negli ultimi 5-6-7 anni un po' l'industria italiana, soprattutto manifatturiera nel campo della termoidraulica, si stava convertendo e si è convertita ai pannelli solari termici. Quindi i più grandi imprenditori del settore, caldaisti, produttori di condizionatori di geotermia, avevano anche messo in piedi delle linee di produzione. Ecco, hanno messo vicepresidente, in piedi... scusi se la interrompo, perché ci sono due domande da parte degli ascoltatori. La prima è quella di capire, ma quindi voi non avete ricevuto incentivi o ne avete ricevuti meno? No, noi abbiamo meno? Un incentivo abbastanza importante. 55%? È il 55%. Non è male. Questo è un buonissimo incentivo, solo che di fronte a un conto energia che viene appunto dato col fotovoltaico sparisce, perché il conto energia chiaramente è un incentivo devastante. Quindi, ma quindi adesso cosa chiedete sostanzialmente? Cioè di essere rivalutati all'interno di un pacchetto o... Beh, noi diciamo che fondamentalmente chiediamo che ci sia un'ampia visibilità su quelle che sono le fonti rinnovabili termiche, quindi che lo Stato usi i mezzi, i soldi che ha a disposizione per l'energia che più produce kilowatt, no? In questo caso i kilowatt termici o i kilowatt elettrici, abbiamo detto, sono la stessa cosa perché sono sempre kilowatt. I pannelli solari termici hanno una resa che attualmente è di circa 4 volte quelli che possono essere i pannelli solari fotovoltaici, però è chiaro che a fronte di queste nuove tecnologie noi non vogliamo chiedere assolutamente che vengano create delle disparità nei nostri confronti, quindi certo, poter essere un'energia anche noi rinnovabile, ma a tutti gli effetti. Cioè, noi avevamo presentato anche un progetto di proprio solarizzazione dell'Italia, no? Il che avrebbe portato a una drastica diminuzione della CO2, una drastica diminuzione degli utilizzi di metano o di gasolio, ma senza dover investire da parte dello Stato delle cifre devastanti come sta facendo adesso, e che poi sono cifre che, ricordiamocelo bene, devono essere mantenute per 20 anni. Senta, se vogliamo appunto per solarizzare l'Italia, voglio dire, poi la scelta passa dal singolo utente, proprietario di casa. Certo. Come fa a rapportarsi con questa tecnologia? Noi riceviamo tante domande di ascoltatori che dicono: eh sì, però dove lo trovo, come funziona, come faccio a installarlo sul tetto? Diciamo che ormai, come le dicevo, la produzione italiana, al contrario della produzione di pannelli solari fotovoltaici, la produzione italiana c'è ed è molto importante, mentre l'elettrico viene ormai completamente importato dalla Cina. Ma quindi qualsiasi privato che volesse installare uno bagno solare oppure integrare l'impianto di riscaldamento, o un'industria volesse integrare i suoi kilowatt di processo col solare termico, lo trova sicuramente presso qualsiasi o installatore o tecnico o termotecnico. Quindi la diffusione ormai dipende soprattutto dal era stato anche detto però che c'erano dei problemi dal punto di vista di regolamentazione, che non ovunque si può mettere il pannello, insomma questi problemi rimangono, perché poi gli ascoltatori chiamano e ci dicono: sì, però qua mi hanno bloccato, in questo comune non posso metterlo sul tetto perché ci sono caviglie. È tutto vero? Sì, è abbastanza vero, ma d'altronde dobbiamo tener conto anche che l'Italia ha un panorama architettonico storico abbastanza importante. C'è una legge che nel 2008 impedisce a tutti a chi volesse installare pannelli solari di installarli in modo, diciamo, sollevati dal tetto, quindi tutti i pannelli solari devono essere messi paralleli alla falda del tetto, e questo già migliora il panorama estetico generale. Poi teniamo conto che un impianto solare termico, per esempio su una famiglia tradizionale di 4-5 persone, ha bisogno solo di 4 o 5 metri quadri, quindi anche dal punto di vista invasivo estetico non è proprio tanto. Va bene, io la ringrazio. Una domanda lampo da parte di Cesare a Mario Cianflone. Ma allora, dice Cesare, lo dico anch'io, le auto a zero emissioni non esistono? Lo diciamo un po' polemici noi, perché ci piacciono le biciclette, ci piace questo mondo. Ci sono le macchine a emissioni vicine a zero. Vicine a zero, sottolinei, vicine a zero. Non è zero, vicine, ma vicine a zero. Probabilmente non ci andremo mai, perché comunque l'energia da qualche parte va prodotta. Cioè, tu l'hai presa nel senso letterale la cosa. No, assolutamente. Va benissimo. Letterale. Io ringrazio Mario Cianflone, ringrazio Luca Salvioli. Grazie a te, grazie a tutti. L'appuntamento alle 16.30 di lunedì. Arrivederci.